Ora, io non avevo mai ripensato a quel nipote, che era stato forse l'iniziatore grazie al quale io avevo avuto da lei il primo bacio. E a tutta la mappa delle inquietudini di Albertine che m'ero costruita, bisognava sostituirne un'altra. Oppure sovrapporgliela, perché forse non la escludeva, dato che l'inclinazione per le donne non impedisce a una donna di sposarsi. Quel matrimonio era davvero la causa della fuga di Albertine? E per amor proprio, per non aver l'aria di dipendere da sua zia o di forzarmi a sposarla, non aveva voluto dirmelo. Cominciavo a rendermi conto che il sistema delle cause molteplici d'una sola azione, adottato da Albertine nei suoi rapporti con le amiche quando a ciascuna faceva credere d'essersi mossa per lei, non era che una sorta di simbolo artificiale, voluto, dei vari aspetti che un'azione prende a seconda dei punti di vista in cui ci si pone. Lo stupore e quella sorta di vergogna che provavo per non essermi detto una sola volta che Albertini in casa mia era in una posizione falsa che poteva dispiacere a sua zia, non era la prima volta che li provavo. E non fu l'ultima. Quante volte mi è capitato, dopo aver cercato di capire i rapporti fra due persone e le crisi che essi comportano, di sentire tutto a un tratto un terzo parlarmene dal suo punto di vista, avendo lui rapporti ancora più intensi con uno dei due, punto di vista che è stato forse la causa della crisi. E se gli atti rimangono così incerti, come potrebbero non esserlo anche le persone? A sentire chi sosteneva che Albertina era una furbacchiona, che aveva cercato di farsi sposare da questo o da quello, non è difficile supporre come avrebbero definito la sua vita in casa mia. Eppure, secondo me, era stata una vittima. Una vittima forse non del tutto pura, ma colpevole allora per altre ragioni, a causa di vizi di cui nessuno parlava. Ma questo soprattutto bisogna dire a se stessi. Da un lato, la menzogna è spesso un tratto del carattere. Dall'altro, in donne che altrimenti non sarebbero affatto bugiarde, essa è una difesa naturale, improvvisata e poi sempre meglio organizzata contro quel pericolo subitaneo e capace di distruggere qualsiasi vita, che è l'amore. D'altra parte, non è per effetto del caso che gli esseri intellettuali e sensibili si danno sempre a donne insensibili e inferiori, alle quali tengono comunque, e che nemmeno la prova di non essere amati li guarisce dal sacrificare tutto pur di conservare accanto a sé una donna siffatta. Se dico che questi uomini hanno bisogno di soffrire, dico una cosa esatta. Sopprimendo le verità preliminari che fanno di questo bisogno, in un certo senso involontario, di soffrire, una conseguenza perfettamente comprensibile di tali verità. Senza contare che, essendo rare le nature complete, un essere molto intellettuale e sensibile avrà generalmente poca volontà. Sarà in balia dell'abitudine e di quella paura di soffrire nell'immediato che condanna alle sofferenze perpetue, e in queste condizioni non vorrà mai ripudiare la donna che non lo ama. Ci si può stupire che si accontenti di così poco amore, ma bisognerebbe piuttosto rappresentarsi il dolore che può venirgli dall'amore che prova. Dolore che non è troppo il caso di compiangere, giacché le terribili commozioni provocateci dall'amore infelice, dalla fuga, dalla morte di un amante, sono come quegli attacchi di paralisi che inizialmente ci fulminano, ma dopo i quali i muscoli tendono a riprendere a poco la loro elasticità, la loro energia di prima. Per di più, è un dolore non privo di compensazione. Gli esseri intellettuali e sensibili sono, generalmente, poco inclini alla menzogna. Questa li prende tanto più alla sprovvista in quanto, anche se molto intelligenti, essi vivono nel mondo del possibile, reagiscono poco. Vivono nel dolore inflitto loro da una donna piuttosto che nella chiara percezione di ciò che questa donna voleva, di ciò che faceva, della persona che amava, percezione concessa soprattutto alle nature volitive, che ne hanno bisogno per prepararsi al futuro anziché piangere sul passato. Questi esseri si sentono dunque ingannati senza saper bene in che modo. Così la donna mediocre, che siamo stupiti di vederli amare, arricchisce il loro universo assai più di quanto avrebbe fatto una donna intelligente. Dietro ciascuna delle sue parole, essi sentono una menzogna. Dietro ogni casa in cui lei dice d'essere andata, un'altra casa. Dietro ogni azione, ogni essere, un'altra azione, un altro essere. Certo, non sanno quali, non hanno l'energia, non avrebbero forse la possibilità d'arrivare a saperlo. Una donna mendace con un trucco estremamente semplice può ingannare, senza darsi la pena di cambiarlo, un gran numero di persone e, ciò che più conta, la stessa che avrebbe dovuto scoprirlo. Tutto ciò crea, di fronte all'intellettuale sensibile, un universo tutto in profondità che la gelosia vorrebbe sondare e a cui la sua intelligenza non può non interessarsi. Senza essere precisamente uno di costoro, io ero forse sul punto, ora che Albertina era morta, di conoscere il segreto della sua vita, ma tutto questo, queste indiscrezioni che si producono solo dopo che la vita terrena di una persona è finita, non provano che nessuno crede, in fondo, a una vita futura. Se le indiscrezioni sono vere, bisognerebbe temere il risentimento di colei le cui azioni vengono svelate per quando la si incontrerà in cielo, e tanto più quanto più la si temeva finché era viva e ci si credeva tenuti a serbare il suo segreto. E se le indiscrezioni sono false, inventate perché lei non è più lì a smentirle, ancora di più si dovrebbe temere la collera della morta se si credesse al cielo, ma nessuno ci crede. E così era possibile che nel cuore di Albertine si fosse svolto un lungo dramma fra restare e lasciarmi, ma che m'avesse lasciato a causa di sua zia o di quel giovanotto e non a causa delle donne, alle quali forse non aveva mai pensato. La cosa più grave per me fu che André, che pure non aveva più niente da nascondermi sui costumi di Albertine, mi giurò che comunque non c'era stato niente del genere fra Albertine da una parte, Mademoiselle Vinteuil e la sua amica dall'altra. Albertine ignorava lei stessa i propri gusti quando le aveva conosciute, e loro, per quel timore di ingannarsi nel senso desiderato che genera più errori dello stesso desiderio, la consideravano come affatto ostile a tali cose. Molto più tardi avevano forse saputo della conformità dei suoi gusti con i loro, ma allora conoscevano troppo bene Albertine e Albertine loro per poterci anche solo pensare. Insomma, capivo sempre meno perché Albertine mi avesse lasciato. Se il volto di una donna è difficile da afferrare per gli occhi che non riescono ad applicarsi a tutta quella superficie in movimento, per le labbra più ancora per la memoria, se delle nuvole lo modificano a seconda della sua posizione sociale, a seconda dell'altezza a cui ci si pone, come ancora più fitto è il sipario che divide le sue azioni visibili dai suoi moventi. I moventi stanno a un livello più profondo che noi non scorgiamo e d'altra parte generano azioni diverse da quelle che conosciamo e spesso in contraddizione con esse. In quale epoca non c'è stato qualche uomo pubblico creduto un santo dai suoi amici e di cui si scopre che ha fatto dei falsi, rubato allo Stato, tradito la patria? Quante volte un gran signore è derubato ogni anno da un amministratore che egli stesso ha allevato, di cui avrebbe giurato che era onesto e che forse lo era. Ora, questo sipario che nasconde i moventi altrui diventa più impenetrabile se di quella persona siamo innamorati. L'amore, infatti, oscura sia il nostro giudizio, sia le azioni di colei che, sentendosi amata, smette di colpo di dare importanza a ciò che per lei altrimenti ne avrebbe avuta, per esempio la ricchezza. Forse è anche spinta in parte a fingere questo disdegno per la ricchezza dalla speranza di ottenerne di più, facendoci soffrire. Anche il calcolo può mischiarsi al resto. E perfino dei fatti positivi della sua vita, un intrigo che non ha confidato a nessuno per paura che ci venisse rivelato, che molti, cioè nonostante, avrebbero forse conosciuto se di conoscerlo avessero avuto il desiderio appassionato che ne abbiamo noi, ma conservando loro una maggior libertà mentale, destando nell'interessata meno sospetti. Un intrigo che qualcuno forse non ha ignorato, ma qualcuno che noi non conosciamo e che non sapremmo dove trovare. E fra tutte le ragioni di quell'atteggiamento inesplicabile nei nostri confronti, bisogna far rientrare le singolarità di carattere che spingono un essere, per negligenza del proprio interesse, oppure per odio, per amore della libertà, per un brusco impulso di collera, per timore di ciò che penseranno determinate persone, a fare il contrario di ciò che pensavamo. E poi ci sono le differenze d'ambiente, a cui non si vuol credere perché conversando le si cancella nelle parole, ma che si ritrovano, quando si è soli, a dirigere gli atti di ciascuno da un punto di vista talmente opposto che non c'è incontro veramente possibile.